Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eccoci pronti come sempre dal Groovemaster Studio. Buonasera a tutti voi amici di Radio 24, da Gegè Telesforo, e ancora una volta buonasera, è presente, oramai vive qua, si è trasferito qui, vive in mezzo alla nostra discografia, ai nostri strumenti, il nostro archivista multimediale Francesco Tromba, in persona potrei dire. Ciao a tutti, buonasera Gegè. Buonasera Francesco, beh, che mi dici? Tutto bene, sì. Sono qui con un libro che è fantastico, grande copertina. Grande copertina, quasi mi vergogno però, Perché il tuo songbook è stato pubblicato. È incredibile, quasi mi dà, non lo so se mi dà gioia o ansia questa cosa qui, di questo tipo di pubblicazione, perché siamo abituati a vedere pubblicata la nostra musica sotto forma di CD. Invece qui si fa un salto spazio-temporale proprio nel passato, perché vedere insomma gran parte delle composizioni scritte in una carriera pubblicate su carta e quindi con tanto di spartiti anche tutti i testi, dà una certa emozione. È forte, una bella sensazione. Sì, tra l'altro ci sono alcuni brani che veramente non conoscevo benissimo, ad esempio questo Nero Vero, che spero di ascoltare. Nero Vero è molto interessante. Hai letto il testo? Sì, sto leggendo il testo, è veramente forte, particolare. Il testo è stato elaborato insieme a un mio amico, un pazzo furioso, un artista anche lui multimediale e concettuale, che ho perso di vista purtroppo per me anche per gli amici, che si chiama Fausto Mechilli, una volta conosciuto come Notorious Pantera. So che si è trasferito negli Stati Uniti, tra l'altro nel deserto lì a Las Vegas, poi è rientrato in patria, ma non so esattamente che cosa stia facendo e di cosa viva. Fatto sta che Fausto Mechilli, eccellente artista secondo me, scrisse con me il testo di Nero Vero, che poi è una composizione che io ho dedicato al mio amico Renzo Arbore, perché parla di un viaggiatore. E vabbè, ma tanto non abbiamo in Airplay Nero Vero. Perché non lo mettiamo magari? Adesso dovrei cambiare tutto l'ordine degli addendi, mio caro. Cambiamo. Tu lo sai che io per fare le scalette lavoro giornate intere. Sì, perché comunque bisogna... Perché bisogna lavorare così. Certo. Prima di tutto bisogna ascoltare tutto quello che arriva dal mercato internazionale e multimediale, fare la nostra bella selezione e poi riportare tutto su carta, no? Perché qua i tempi vanno rispettati, mio caro. Beh sì, perché alla fine tu è come se fossi un direttore artistico di queste due ore che occupi alla Radio 24. Io proprio sono, non so se definirmi il presidente del consiglio, no, io sono proprio il dittatore di queste due ore. Naturalmente no, cioè regna la democrazia, perché deve sempre regnare nella musica, come nel jazz, no? Sì, però poi il leader è uno. È bravo, e così stanno le cose. C'è il leader che guida, però poi si dà la libertà di espressione a tutti i componenti della band, ed è quello che io faccio anche con te. Sì, perché pure io ogni tanto qualche proposta te la faccio, a volte me l'accetti, a volte. Per esempio abbiamo discusso adesso su Kendrick Lamar, sul nuovo album di Kendrick Lamar. Tu sei rimasto deluso che io non l'ho messo in scaletta? Abbastanza, però. Bene, allora discuteremo e litigheremo fra pochissimo. Io direi però di andare subito alla musica, scusandoci con gli amici di Radio 24, di andare subito alla musica, perché c'è una delle nostre band preferite che non è proprio allineata con il sound del soundcheck, ma i brani che ho selezionato a me sono piaciuti abbastanza, anche perché abbiamo anticipato quest'uscita qualche settimana fa con il singolo. Invece adesso Little Dragon hanno pubblicato il nuovo album. Sì, che si intitola Season High. Devo dire che rispetto ai precedenti è un pochettino più in basso, diciamo, perché va verso una... Cercano di catturare più pubblico, forse? Sì, sia quello, però diciamo che sono ad un momento in cui secondo me non hanno ben chiaro cosa vogliono fare dopo, perché cercano questo impasto di sound. Adesso mi arriva molto il tromba, mi arriva il tromba che deve criticare Little Dragon. Tu lo sai che hanno dei fan accaniti in Italia? Beh sì, però in realtà non sono l'unico che ha criticato questo lavoro. Leggendo un po' di recensioni sia su Pitchfork online, no? Ci sono diversi che hanno criticato questo lavoro perché appunto alla fine, a parte un paio di canzoni, non rimane molto di questo disco, però è bello comunque. Beh, comunque a me questo brano piace e lo passiamo subito avanti. Andiamo, Strobe Light, Little Dragon, dal nuovo album. Questo brano non mi dispiace, dal nuovo album di Little Dragon qui al Soundcheck di Radio 24. Forse l'opera completa non dà soddisfazione come le pubblicazioni degli ultimi anni, ma la band resta sempre tra le più interessanti del panorama contemporaneo. Tra l'altro, lo ripetiamo, è una band nord europea che spopola in tutto il mondo. Pensate soltanto che negli ultimi concerti fatti in California, a Los Angeles, erano proprio Hiatus Coyote che aprivano i concerti di Little Dragon con Napalm. Sì, poi la cosa strana in questo disco è che mentre loro negli anni comunque hanno collaborato con super band, super artisti come De La Soul, Flume, Mac Miller, Keitranada, i Gorillaz, non gli è stato restituito il favore mai, diciamo, nei loro dischi, all'interno dei dischi di Little Dragon. Nel senso che non hanno mai partecipato questi artisti? No, non so se magari loro non li hanno chiamati, hanno preferito fare da loro, oppure non te lo so dire questo, però beh, non li hanno restituiti. Coinvolgere delle star è sempre una bega. Dovresti saperlo, sì. Cioè, quando tu realizzi un album e chiami uno special guest, intanto ci sono delle formule contrattuali e poi a secondo dei rapporti la star la devi pagare oppure cedere gran parte delle royalties o addirittura le edizioni o parte della composizione. Insomma, però a meno che non ci sia un rapporto di amicizia vero. Però ti portano comunque anche tanta visibilità al tuo nuovo progetto, no? Evidentemente Little Dragon valuta visibilità e rottura di palle. Quale delle due può essere più importante? Va bene, eccoli qui con High, Little Dragon, tanto per chiudere il capitolo su di loro. Oggi, attenzione, tantissime novità, quindi bisogna tenere carta e penna per quelli old school, invece per i contemporani dei millennial, così li chiamo. Millennials. I millennials con Shazam attivato, vai. Soundcheck, il suono della musica. E questi ragazzi, Blended Babies, li abbiamo conosciuti e incontrati perché seguivamo già da qualche tempo le vicende artistiche di Anderson .Paak, che si ritrovò a collaborare con loro. Blended Babies tornano con Broken qui al Soundcheck di Radio 24, la partecipazione di Jonathan Chapman e Donny Piero in questo nuovo EP intitolato Seven. Ecco, il titolo dell'album non è un granché, ma la copertina è quasi stupefacente, nel senso che non mi sarei mai aspettato una cosa così sfacciata. Sì, diciamo quasi un poster da macelleria o da... È bravo, ma no, peggio, perché di solito in quei posti trovi il poster con la figura femminile al completo, no? È vero, hai ragione. Diciamo, ti ritrovi, non voglio dire Jennifer Lopez, ma come si chiama la tua preferita? Belen Rodriguez. Belen Rodriguez, trovi il poster di Belen Rodriguez. Invece i Blended Babies hanno scelto di Belen Rodriguez, poi non sarà di Belen Rodriguez, no. Sicuramente, perché credo che sia proprio una cosa più importante, più importante, un po' più rotonda. Sì, il famoso booty del quale parlavamo con Joanna Titres tempo fa, no? Un booty carico di soul. In bella mostra nella copertina dell'album, ma anche nella copertina digitale, sì, quasi scioccante. Questo conferma che appunto il discorso che facevamo con Joanna Titers, che il booty è direttamente proporzionale anche a quanto sei all'anima soul. A quanto sei soul. Va bene, Blended Babies tornano al Soundcheck di Radio 24, lo abbiamo detto, diverse novità. Comunque io l'EP l'ho ascoltato, Francesco, non è un granché. Insomma, ho scelto Broken, sì, che è divertente. Ci ma sono per il resto... un paio di brani che sono carini, però niente di fenomenale, diciamo. Sì, bisogna stare attenti. Infatti apprezzo moltissimo le pubblicazioni che fanno oggi gli artisti, soprattutto gli artisti giovani, che evitano di pubblicare un album al completo, ma iniziano a mettere in bella mostra su Bandcamp o SoundCloud i singoli. Poi, quando hanno finito la pubblicazione dei vari singoli, li mettono insieme in un EP o in un album, cosa che invece in Italia ancora non si fa. ancora siamo legati al CD, soprattutto i giovani artisti. Io ricevo molte telefonate, dovendo gestire una piccola etichetta indipendente che è Groovemaster Edition, e ho seri problemi perché continuano a farmi proposte di pubblicazioni, ma io sono costretto a raccontare ai giovani artisti: ma pubblicate da voi in internet, perché mi mettete anche in difficoltà. Cioè, un'etichetta piccola come la nostra ha dei costi da, certo, da sopportare, e per supportare gli artisti poi diventa molto complicato oggi. Però tanti artisti italiani comunque hanno capito che in realtà gli conviene crearsi la visibilità da soli. Ovviamente, certo, devono investire, devono avere un capitale da investire inizialmente. Beh, è un piccolo capitale rispetto, sì, a quello che dovrebbe spendere un'etichetta. Certo, anche perché, lo voglio dire, state attenti, perché ci sono molte etichette indipendenti, non parlo soltanto di etichette italiane, che chiedono all'artista in partenza l'acquisto di un tot numero di copie. Nel senso, vuoi che io ti pubblichi il disco, però ti devi comprare 1000 copie a prezzo di costo. Fatto sta che all'etichetta la pubblicazione poi non viene a costare nulla. Allora, sì. Di che cosa stiamo parlando, ragazzi? Attenzione, quando vi trovate a che fare con etichette che vi fanno questo discorso, lasciate perdere, pubblicatevelo voi, fate prima, poi andate in una stamperia, vi fate stampare il disco con tanto di bollino SIAE e ve li vendete ai concerti. Sì, ma poi diciamo la verità, ormai comunque i CD veri e propri, il fisico proprio, non si vende facilmente. Dispiace dirlo, perché noi supportiamo la discografia, ma soprattutto oggi, lo posso dire, supportiamo la musicografia. Noi supportiamo la musica, supportiamo la bella musica, quella di qualità, quella alla quale nessuno dà visibilità. Noi invece ci divertiamo a scoprire nuovi artisti, nuovi talenti, nuove sonorità e a proporle qui al Soundcheck di Radio 24, e io ringrazio Radio 24 perché mi dà ancora la possibilità di farlo in libertà. Non so quanto tempo durerà, però speriamo tanto, ce l'auguriamo anche per loro, perché stiamo regalando a Radio 24 una bella colonna sonora. Assolutamente. E beh, quando è giusto, bisogna dirlo, no? Sì, comunque la cura c'è dal punto di vista... La passione pure, sì. La musica ce l'abbiamo, e allora andiamo con Gold Link Summertime qui al Soundcheck di Radio 24. Questo pure non è male, eh? Molto bravo. Soundcheck. Il suono della musica. E a un certo punto mi sono ritrovato fra le orecchie, più che fra le mani, il suono del disco di Drake e il suono del nuovo album di Kendrick Lamar. A questo punto è nata una discussione in famiglia, qui all'interno del Soundcheck, con Francesco Tromba, la nostra Silvia Barba, una grandissima, animata discussione. Beh, sul valore del disco di Kendrick Lamar, che non è presente, attenzione, in questo airplay. La mia opinione ovviamente va sempre a favore di Kendrick Lamar, perché io lo stimo tantissimo, è uno dei miei rapper preferiti in assoluto proprio. Secondo me sì, rispetto a To Pimp a Butterfly è comunque un altro disco completamente, che ha un interlocutore anche forse diverso, nel senso che mentre quel tipo di disco puntava molto anche su chi era appassionato di jazz, questo è molto più come erano quelli precedenti di Kendrick Lamar. Ma questo è proprio gangsta. Sì, alcuni pezzi sono molto gangsta. Sinceramente non mi lascio mai andare a questo tipo di giudizio. La prima cosa che deve venire fuori da una pubblicazione discografica, da una composizione o dal suono di un artista è l'emozione. E io, Francesco, con il disco di Kendrick Lamar non mi sono emozionato. Perché è monocorde, è monotono, è estremamente noioso, e avendo anche difficoltà nella comprensione dei testi, perché qui il signor Kendrick Lamar fa di tutto per non farsi capire da noi bianchi di Foggia, o tu di dove sei? Di Reggio Calabria. Hai capito qualcosa dei testi di Kendrick Lamar? Cioè, se non hai il testo scritto, come fai a capire che cosa sta diciamo dicendo? Diciamo che anche se hai il testo scritto e anche se sei americano, magari non capisci del tutto il messaggio è criptico, vero, di Kendrick è vero, Lamar. Quindi amici, ecco, non vi dovete sentire in colpa se non comprendete i testi dei rapper americani, perché anche gli americani stessi fanno fatica a riconoscere il significato. No? Spero, sì, perché comunque è molto slang che viene utilizzato nel ghetto e magari è diverso da Los Angeles a New York, è completamente diverso. Ecco, e poi tra l'altro anche nei mix che vengono fatti oggi, una volta nei mix le parti vocali erano molto fuori dal mix, quindi sovrastavano un po' la parte ritmica, oggi invece si dà molto importanza alla parte ritmica, batteria, basso e tutto il resto, e le voci vengono missate all'interno e quindi diventa anche proprio difficile capire la sillabazione dei testi. Ma noi non abbiamo Kendrick Lamar, quindi non dobbiamo parlare di Kendrick Lamar, dobbiamo parlare di Drake. Sì, Drake ha avuto un grandissimo successo negli ultimi anni e lui è un rapper canadese, ha pubblicato recentemente questo nuovo mixtape che si intitola More Life, che ha più il sapore della playlist, della compilation rispetto ai lavori precedenti, ed ha collaborato con tantissimi artisti e devo dire che il risultato è molto valido, perché il sound è molto bello, è molto pieno, molto ritmato. Oh, finalmente, finalmente, mi hai dato soddisfazione. Sì. Allora, Drake, tra l'altro io ho scelto due brani compatibili con il suono del soundcheck, quelli forse dove viene anche fuori l'anima africana di Drake, gli altri brani invece, un po' come Kendrick Lamar, sono più sul gangsta style old school. Sì, un po' più commerciali. Allora, Drake con Get It Together e poi facciamo una pausa perché arriva l'informazione di Radio 24. Restate con noi. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Siamo pronti per la seconda parte del soundcheck, il suono della musica di Radio 24 con Giorgio Telesforo e Francesco Tromba, che sta continuando a spogliare il songbook. Tra l'altro voglio ringraziare la casa editrice milanese, la MAP, che mi ha dato questa gioia e questa soddisfazione di pubblicare. Quanti brani abbiamo selezionato? Forse più di 30 fra composizioni vecchie e recenti. 31 esattamente. 31 esattamente. Devo dire, impaginato molto bene, sono molto contento, una grande gioia anche per mio padre. Sì, è molto bello anche da spogliare. Mio padre si è emozionato quando ha visto, Madonna, ha fatto, Madonna, come Mozart e Beethoven. Ti trova accanto Mozart e Beethoven. Beethoven, mamma mia, che soddisfazione. No, una bella cosa anche per tutti gli amici che in tanti anni di carriera mi hanno affiancato anche nella scrittura delle composizioni. Ci sono molti brani scritti insieme a Ben Sidran, ma anche molti con i testi della bravissima Greta Panettieri, che ha collaborato con me nella pubblicazione degli ultimi due album. Quindi ci sono i testi, c'è tutto. Io comunque voglio sentire questo pezzo Nero Vero, perché non me lo ricordo assolutamente. Allora devo togliere qualcosa. Guarda, sì, faccio dai, una cosa, lo metto in AirPlay. Allora facciamo così, adesso ascoltiamo Madison McFerrin, avevo scelto? Sì, avevi sì, scelto. C'è Madison McFerrin, la figlia di Bobby McFerrin e Taylor McFerrin, e mentre passa il brano io vado a prendere Nero Vero e lo metto in scaletta. Va bene, dai. No, perché qua facciamo proprio all'antica, devo prendere il CD perché non ce l'ho caricato. Addirittura. Dobbiamo passare. Vado a prenderlo io il CD. Tu sai dov'è, io non lo so dov'è. dai, ora tu vado hai a cercare. Un modo tutto tuo di catalogare i CD. Sì, i miei dove li hai messi che non li trovo? Ho un ordine molto particolare anche a casa, infatti la mia ragazza spesso troviamo motivo di litigio, perché io le cose poi alla fine bene o male le trovo anche se sono disordinate. Ma però a casa tua lo puoi fare, non nel mio studio. I miei CD dove li hai messi? Lo so, proprio perché quelli comunque miei, poi li tocco io, quindi tu li lasci adesso là. Adesso mi fai vedere. Ma andiamo a Madison McFerrin, intanto poi andiamo a cercare Nero Vero. Madison McFerrin, che cosa possiamo dire di questa ragazza? Figlia d'arte, cresciuta in una famiglia di musicisti, di cantanti, di musica. Di super campioni, perché mamma Bobby mia. McFerrin, che cosa gli vuoi dire? No, niente, uno sciamano della vocalità. Praticamente ha trasmesso il gene della musica ai suoi due figli, perché anche loro, senza diciamo compiere dei veri e propri studi accademici, sono due musicisti molto bravi, molto preparati. E anche molto diversi dal sì. padre, no? Perché il padre ha proprio la scuola accademica, quella che viene anche dal gospel spiritual, per la famiglia, poi il jazz e poi sì, molto più tecnico ovviamente, spaventoso vocale. Tecnicamente, ma non posso neanche più definirlo un cantante, sul serio un profeta, uno sciamano della vocalità, sì, un guru meraviglioso. E invece i figli sono più contemporanei, certamente Madison McFerrin non ha la vocalità del padre. No. Non posso neanche definirla una delle più brave cantanti in circolazione, perché anche già se... la nostra amica Joanna Titters, come dire, la fa a fette per il timbro. Sì, nel senso che comunque il suo genere è un po' diverso, la sua voce e la sua vocalità sono molto diverse rispetto a Joanna Titters. Ma la cosa che a noi interessa è che Madison McFerrin spinge sempre su qualcosa di nuovo, e questa volta cerca di riprendere un po' le vicende del padre degli esordi, no? Ricordi Don't Worry Be Happy? Sì. No? E qui lo fa Madison McFerrin, che a cappella realizza questo primo singolo, probabilmente di una prossima pubblicazione. Sì, di un EP che è uscito alla fine del 2016, a cavallo tra il 2016 e il 2017. E come mai io ho solo il singolo? Ha fatto 3 brani. Ah, ma tu ce l'hai? L'EP è di solo 3 brani. Sì, si trova su Bandcamp. Ah, su Bandcamp? Perché non me l'hai girato? Ora te lo giro. Va bene. Dobbiamo sempre discutere. Allora, No Time to Lose, Madison McFerrin al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. E qui iniziamo a spingere l'acceleratore sulla musica, sul sound di oggi, il sound di New York, il sound degli Stati Uniti, dei musicisti della nuova generazione che sono appassionati di hip hop, forse si sono formati con il soul e l'R&B ascoltato dai loro genitori, hanno vissuto il momento dell'hip hop, ma studiano jazz nelle migliori scuole di musica negli Stati Uniti, che sia la Berklee, il Berklee College o la New School o la Juilliard. Questi musicisti sono anche preparatissimi e possono suonare di tutto, e questo signore giovanissimo si chiama Braxton Cook, e proprio con il nostro Francesco Tromba lo abbiamo ascoltato dal vivo e lo abbiamo conosciuto quando più o meno un anno fa ci siamo recati a Perugia per incontrare Christian Scott, il trombettista che aveva da poco pubblicato Stretch Music, e nella band c'era questo sassofonista giovanissimo, forse avrà avuto 21 anni, 22. Sì, all'epoca mi sa che ne aveva 21, ora ne ha 23, quindi... Sì. 23 anni per Braxton Cook, e l'album è veramente interessante. Si intitola Somewhere in Between, il brano che abbiamo ascoltato era Never Thought. Io raccomanderei agli appassionati di musica, di jazz e di qualità di non lasciarsi sfuggire, di conoscere un po' meglio Braxton Cook. Sì, lui viene dalla Juilliard, è un sassofonista, come abbiamo detto, e il suo amore per il sassofono inizia all'età di 5 anni, quando sua madre affittò un sassofono per la festa di compleanno del padre, e il padre iniziò a suonare quasi tutto il giorno Somewhere Over the Rainbow, mentre i fratelli di Braxton Cook uscirono dalla camera in cui era il padre, lui rimase lì ipnotizzato per tutto il giorno. A un certo punto suo padre gli chiese: vuoi suonare qualcosa tu? Siccome era talmente piccolo, aveva 5 anni, non riusciva neanche a tenere in mano il sassofono, il padre lo teneva e lui ci soffiava dentro, e da quel momento si innamorò di quello strumento, che praticamente poi è stato sottratto al padre ed è diventato il primo strumento di Braxton Cook. Formidabile, la band è formidabile, il disco è molto ben realizzato, lo trovo quasi più interessante del nuovo album di Christian Scott che presto presenteremo qui al Soundcheck. Sì, diciamo che l'album di Christian Scott è in un certo senso come se fosse il capitolo 2 di Stretch Music. Mentre questo di Braxton Cook è completamente diverso, molto più, diciamo, armonico, molto più sulle sonorità dell'R&B, completamente diverso. Beh, diciamo, insomma, adesso non si può più catalogare la musica, però questo è il suono nuovo, c'è di tutto. Sì, c'è tutto dentro. Questo è proprio il nuovo jazz. Soprattutto mi ha sorpreso il fatto, cioè lui comunque canta molto bene nonostante sia un sassofonista, non lo conoscevo come cantante, quindi. Sì, e noi dovremmo proprio tentare questa impresa, mio caro Francesco, dovremmo trovare intanto i partner, Per cosa? È per fare il Soundcheck Festival. Magari. Questo io voglio fare. Voglio proporlo a Radio 24. Vorrei proporre questa impresa. Naturalmente bisogna trovare gli investitori, perché non è che posso sempre spendere i miei soldi. Certo, perché comunque no. Alla fine basta che trovi due o tre partner grossi e alla fine si fa. Guarda che se riusciamo a mettere su il Soundcheck Festival e a invitare tutti i nuovi talenti, facciamo una gran bella cosa. Anche perché io ho una visione contemporanea di come dovrebbe essere gestito un festival nel nostro paese o anche da un'altra parte, non è importante. Ovvero come? Spiegami qualcosa. E che faccio? Te lo spiego in radio così? ci vuole il copyright qui, dai. Vabbè, allora me lo spieghi appena mettiamo la musica, dai. No, ma pure a te, pure di te non mi fido. Non ti fidi. No, non mi fido più di nessuno, no. Ma guarda, andiamo a Braxton Cook, Somewhere in Between, il titolo dell'album, forse è il primo album di questo ragazzo. Sì, è il primo album, assolutamente. Mamma mia, che bravo. I Can't, qui al Soundcheck di Radio 24, Braxton Cook. Can you hear me? Mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi. Soundcheck, il suono della musica. Non posso nascondere ancora una volta il mio amore spassionato per la musica, l'arte e il talento di Becca Stevens, ma non posso anche non confessare la mia passione per questa donna americana formidabile. Eh sì, infatti faccio un appello, se c'è qualche scultore all'ascolto, se può farci una statua di Becca Stevens. Da mettere qui nel Groove Master. Te la regalo, te la mi regalo. Mi stai prendendo io in giro. Guardate che formidabile, ragazzi. Regina, il nuovo album di Becca Stevens è un piccolo grande capolavoro. Assolutamente, sono d'accordo. Meraviglioso. Anche i precedenti sono comunque dei gran bei dischi. Però qui viene fuori proprio la grandezza di questa cantante, chitarrista, musicista completa, album prodotto insieme a Michael League, con la partecipazione di Lauren Vula, David Crosby e Jacob Collier. Il lavoro che ha fatto Jacob Collier qui con Becca Stevens merita grandissima attenzione. Ragazzi, se siete musicisti o cantanti e siete in ascolto, non perdete Regina di Becca Stevens, è una grandissima lezione di musica. Quest'estate tra l'altro sarà ancora una volta ai seminari di Siena Jazz in estate. Ecco, ad agosto. Allora mi devo segnare subito l'appuntamento perché mi devo vestire elegantissimo e andare a fare la mia piccola dichiarazione d'amore a Becca Stevens. Ti presenti con, no, diciamo ad agosto la scatola di cioccolatini non va bene, non con va un mazzo bene di fiori. Ma, almeno un mazzo di fiori sicuramente. Allora, voglio anticipare che domani sera qui su Radio 24 a partire dalle 19:15 dedicheremo l'intera puntata a questa ragazza, Becca Stevens. Naturalmente twitteremo tutto il nostro entusiasmo proprio a Becca Stevens, che spero colga in qualche modo la mia passione per lei. Eh sì, qualche volta ci ha risposto anche su Twitter. Va bene, adesso però sta diventando di fama internazionale la ragazza, visto che in tournée credo con Snarky Puppy, apre i concerti di Snarky Puppy. Eh sì, sì. E infatti penso che sarà anche in Italia, quasi sicuramente, mi auguro almeno. Eh sì, ma che lei una volta era fidanzata con Taylor Hexty, il pianista. Non lo so se ancora, non sono bravissimi. No, non in fatto speriamo che non si fidanzi in tournée con qualcuno degli Snarky Puppy, lì sono tantissimi. Vabbè, ma anche se si fidanza non è detto che magari... Vabbè, tu dici, noi non siamo gelosi, no? È mentalità aperta. Becca Stevens domani al Soundcheck Radio 24, tutta la puntata dedicata a lei. Allora, sentite questo capolavoro, As, di Stevie Wonder. Lo rimettiamo in onda, l'abbiamo già fatto la settimana scorsa, credo. Sì. Il capolavoro di Stevie Wonder riproposto da Becca Stevens con la partecipazione di Jacob Collier, un arrangiamento eccezionale. Godetevelo. Soundcheck, il suono della musica. E sì, così lavoriamo al Soundcheck Radio 24. Come dei segugi seguiamo delle piste, quindi magari ascoltando Kendrick Lamar e andando a leggere i credits dell'album scopriamo che Kamasi Washington ha arrangiato e suonato il sassofono portando con sé tutto un entourage di musicisti. Poi ascoltiamo il disco di Kamasi Washington, ascoltiamo un solo di tromba e verifichiamo che il trombettista si chiama Joseph Lamberg, che ci ritroviamo al Soundcheck Radio 24 con una recentissima pubblicazione. Il brano era As I Think of You per questo giovane sassofonista che coinvolge una voce affidabile come quella di Georgia Annie Muldrow e la partecipazione di Miguel Atwood Ferguson. Mamma mia, che presentazione difficilissima. Sì, nomi abbastanza difficili. Però è così che lavoriamo noi. Eh sì, l'album si intitola Astral Progressions ed è molto interessante. Progressioni astrali. Sì, come suggerisce il titolo, ovviamente c'è molto dello spazio di Sun Ra, c'è molta ispirazione rispetto a Sun Ra in questo disco, perché ci sono 4-5 brani che sono un po' più orecchiabili come questo che abbiamo ascoltato, e poi il altri resto sono più tosti, sono molto tosti. Beh, insomma, un po' come fa Kamasi Washington. Esatto, ci sono delle cose godibili e altre che sono un po' più complicate e in parte noiose. Sì, alcune anche un po' noiose. Beh, perché dire la musica non deve annoiare. No, perché mai. Ce n'è troppa, hai capito, Francesco? C'è troppa musica, viene pubblicata troppa musica, troppi artisti, troppe canzoni, quindi uno la vita la deve rendere allegra, no? Certo, sì, bisogna fare delle selezioni naturali, e noi le selezioni naturali le facciamo per il nostro programma, ovvero il Soundcheck di Radio 24, che termina qui oggi. Già è finito? È finito, mi dispiace per te. Non mi fai avanti a sentire Nero Vero? Ah, è vero, c'è Nero Vero. Di che parla Nero Vero? È un testo, praticamente mischi 4-5 lingue. È un esperanto, sì, perché è la canzone di un viaggiatore che va in giro per il mondo e scopre la bellezza delle spezie, dei profumi, degli odori, e si sente anche lui in giro per il mondo un nero. Sì, vero? Leggo un pezzetto. Sei mio fratello gemello, oddio, that's so bello. Sì. Viaggiare, che onda mas linda, la isla del cuore, per sempre trasporta lontano il mio amore. Con te, per te, in the world. In the world, romantico, fantastico, no? Sì. Testo del grande paroliere Notorious Pantera, ovvero Fausto Michilli. Michilli, fatti sentire ogni tanto, dove sei? Guarda che io ho degli amici fantastici. Andiamo a chi l'ha visto. Andiamo a chi l'ha visto a chiedere di Notorious Pantera. Grazie a Francesco Tromba. Grazie a te, Gigi.